Oh, siamo in diretta con il corteo, pronto, ci senti? Pronto, sì, buongiorno. Allora, come va la manifestazione numerosa? Dove siete in questo momento? Allora, in questo momento siamo sul Lungotevere tra Piazza dell'Emporio e la Bocca della Verità. Il corteo è partito dalla piramide un po' tardi con un migliaio di persone. Da lì abbiamo fatto via Laventino, siamo passati al Circo Massimo e poi per via dei Cerchi, che è quella che porta verso Bocca della Verità, per segnalare un posto che quest'estate era stato segnato dal primo municipio agli studenti medi dell'Assemblea Giovani al Centro, e poi per una serie di casini burocratici, come al solito, è stato sgommerato il giorno stesso dell'assegnazione, perciò lì abbiamo fatto questa segnalazione di questo spazio che resta ancora abbandonato e in totale stato di degrado, quando invece poteva essere un punto molto importante di aggregazione per gli studenti. Dopodiché, da Bocca della Verità, abbiamo deciso di girare a sinistra. Adesso stiamo andando verso il Ministero dell'Istruzione, che diciamo è l'istituzione che purtroppo ci dovrebbe rappresentare, anche se ricordiamo comunque che i contenuti che portiamo in piazza non sono solo quelli dello studentismo, dei vari DDL, Avrea, 953, eccetera, ma in realtà affrontano argomenti molto più importanti che riguardano la società tutta e non solo una categoria di persone. Senti, la partecipazione come è stata? Insomma, c'è stato lo sciopero nelle scuole? Dunque sì, le scuole sono praticamente vuote. La piazza è un po' meno piena delle giornate scorse, ma ci immaginiamo che insomma si sono concluse ora le ultime occupazioni, e perciò sta tutti un po' in fase di crisi di forze, perciò ecco, il corso è venuto un po' meno numeroso. Però è vero pure che ci sono due diversi concentramenti. C'è un altro concentramento a Piazza della Repubblica che dovrebbe essersi incontrato con l'università. Adesso qui in piazza arriva informazione che quel concentramento sarà sciolto, però in realtà non ti so dire con certezza. Anche questa divisione probabilmente influisce sul fatto che qui siamo di meno del solito. Comunque la determinazione c'è, il corteo prosegue abbastanza convinto, abbiamo bloccato la strada e andiamo avanti. E quindi rientrerete in zona Trastevere, diciamo? Sì, diciamo che ci riprendiamo questa pratica del blocco e della riappropriazione diretta di cui parliamo dall'inizio anno. Va bene, allora ci risentiamo dopo mezzogiorno per gli ulteriori sviluppi. Ok, d'accordo. A dopo. Ciao. Ciao.